I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. È da molti anni che sentiamo parlare di spending review, di revisione e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni, sia quelle centrali sia quelle periferiche. Ma che cosa è davvero successo in questi anni? Al di là degli annunci, la spending review ha funzionato? Lo Stato spende davvero meno e meglio le proprie risorse? Il governo non ha dubbi e nella prima relazione sulla spending review presentata ieri alla Camera, Göran Gutkel, che è il commissario straordinario alla revisione della spesa, ha snocciolato tutti i numeri che testimoniano i buoni risultati di questi anni. Dal 2014 sono stati realizzati risparmi per quasi 30 miliardi di euro. Nel 2018 si potrebbe arrivare a quota 31 miliardi e mezzo. Significa che al netto della spesa per personale la riduzione della spesa ha toccato il 18% delle spese correnti. Numeri, questo lo ha detto il ministro Padoan, che smentiscono chi sostiene che in Italia la spending non sia stata fatta o sia stata fatta male, il che probabilmente è vero, ma forse è anche vero che si deve fare meglio e si deve fare di più. Abbiamo una spesa pubblica che a fine 2016 valeva 830 miliardi di euro. La spesa va tagliata, ma è necessario trovare spazi e modalità per non tagliare a caso, ma per puntare sugli sprechi e sulle inefficienze delle amministrazioni, a maggior ragione perché è proprio dalla spending review che devono arrivare almeno in parte le risorse necessarie per ridurre le tasse e avviare il risanamento dei conti pubblici. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Oggi l'Istat ha diffuso un interessante studio sulla redistribuzione del reddito in Italia. In pratica è la pagella sull'effetto delle politiche del governo Renzi 2014-2016, a cominciare dal celebre bonus degli 80 euro. Senza entrare nel dettaglio della metodologia statistica, le conclusioni sono queste. Gli interventi hanno migliorato del 56,6% la posizione degli individui con redditi familiari nulli o molto bassi, insomma la fascia più povera del paese, però hanno peggiorato, oltre alle posizioni della parte più ricca, come in effetti è normale, anche quelle della fascia dei redditi medio-bassi, per un ammontare del 49,6%. Il sistema dei bonus poi ha determinato un aumento del rischio povertà per le fasce più giovani della popolazione. In particolare, quel rischio aumenta dal 19,7% al 25,3% per i giovani tra i 15 e i 24 anni e dal 17,9% al 20,2% per chi abbia tra 25 e 34 anni di età. Nel complesso, ci dice sempre il rapporto dell'Istat, le tipologie di famiglia che il sistema di Stato sociale italiano tutela meno dal rischio povertà sono i giovani che vivono da soli o in coppia senza figli e anche in misura minore i monogenitori e le coppie con figli. Risultato finale: i bonus di 80 euro, l'aumento della quattordicesima per i pensionati e il cosiddetto sostegno di inclusione attiva hanno aumentato l'equità della distribuzione dei redditi disponibili nel 2016 e ridotto in generale il rischio di povertà. Ma c'è un ma, come spesso accade. Il conto rischiano di pagarlo proprio i più giovani. Nel secondo paese più vecchio del mondo sono loro la vera fascia debole e forse è arrivato il tempo di una rivoluzione generazionale per portare proprio i giovani al primo punto di una qualsiasi agenda di politica economica. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.